La protezione dei dati personali. Da qualche tempo le esigenze di tutela giuridica del diritto alla riservatezza cominciano a essere considerate in modo diverso da quello tradizionale in relazione a nuovi tipi di aggressioni della sfera privata delle persone sconosciuti in passato. Sono aggressioni che derivano dallo sviluppo delle tecnologie informatiche e dalla creazione di grandi banche dati in cui organizzazioni private e pubbliche accumulano per le proprie finalità enormi quantità di informazioni relative a un grandissimo numero di persone. Il fenomeno di per sé non è negativo, in qualche misura è inevitabile, perché si lega ai bisogni di una società e di un'economia complesse e alla realtà di grandi organizzazioni pubbliche e private che entrano in contatto con una moltitudine di cittadini o utenti destinatari delle loro attività e delle loro prestazioni. Ma è fenomeno che presenta pure dei rischi per le persone cui si riferiscono le informazioni raccolte ed elaborate nelle banche dati. Persone che potrebbero essere danneggiate da un trattamento scorretto delle informazioni che le riguardano. Per combattere tali rischi è intervenuta nel 1996 una legge, poi confluita nel decreto legislativo 196/2003, cosiddetto codice della privacy. Il suo scopo e garantire che il trattamento dei dati personali ad opera delle banche dati informatiche e non si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.